possiedo una caratteristica che spesso mi crea dei problemi, e cioè interpreto le situazioni della vita da una prospettiva insolita. Ma ritengo questo né un merito né un demerito, perché tutti abbiamo le nostre peculiarità. Quando, per esempio, mio figlio frequentava le superiori, la sua professoressa mi disse che aveva una mente da scienziato. Non proseguì gli studi e non divenne uno scienziato, però si inserì nel ramo dell'informatica e precisamente nella programmazione elettronica e ben presto costruì robot aziendali molto efficaci, ricevendo complimenti da chi era più esperto di lui. Perché la mia caratteristica crea problemi? Perché una voce fuori del coro può sembrare deleteria a chi ha dei preconcetti negativi. Infatti si fa un gran parlare della violenza sessuale dell'uomo nei confronti della donna, ed è giusto, ma non ho ancora sentito una voce a condanna della violenza sessuale della donna nei confronti dell'uomo. E ci fosse almeno per la legge della parità, legge tanto invocata dalla maggioranza delle donne. Perché non ci è questa prontezza nel condannare la violenza sessuale della donna nei confronti dell'uomo? Le ragioni sono varie, ma certamente perché non è ritenuta violenza, e qualora fosse riconosciuta per ciò che concretamente è, non sarebbe da condannare come tale. Conclusione questa, che potrebbe sembrare arbitraria, ma se non fosse così, sarebbe una cosa molto grave per una società riconoscere un errore e non fare nulla per rimediare. Il disconoscimento della violenza sessuale esercitata dalle donne è palesato dall'assenza di quegli sforzi per evitare tale piaga sociale, e che invece sono così numerosi quando si tratta della violenza degli uomini a carico delle femmine ritenute intollerabilmente dannosa e di conseguenza così tanto svergognata da innumerevoli campagne pubblicitarie mirate a annientarla. Perciò, in mancanza di una voce autorevole che condanni la violenza sessuale delle donne, è opportuno parlare di questo argomento e vederlo alla luce della parola di Dio. Per prima cosa, la più grande violenza sessuale femminile consiste nell'esporre pubblicamente il proprio corpo coperto il meno possibile a scopo pubblicitario. Ormai siamo talmente bombardati dalla pubblicità dei diversi media dove compaiono corpi femminili seminudi da non farci più caso. Non c'è mai testata di un giornale che, per produrre una maggior vendita, non presenti il gentil sesso in pose provocanti o seducenti per l'uomo. Senza saperlo, gli uomini sono letteralmente vittime del corpo femmineo. E, giusto che ovunque si guardi si debba vedere corpi femminili nudi o seminudi. E, giusto imporre a chi guarda con purità la vita un continuo impatto con ciò che non vorrebbe vedere, nessuno è libero di osservare ciò che gli attorna, e questo si chiama violenza. Se il violento è colui che abusa di un altro, colui che è aggressivo sia con la forza o con qualsiasi altro mezzo, perché si permette che gli occhi altrui siano aggrediti di un qualcosa che non si desidera vedere, è vero che a volte il nudo non è integrale, ma a che scopo scoprire il corpo femminile per farlo vedere? Non è forse per attirare gli sguardi o rendere piacevole un certo oggetto o prodotto? È inutile dire che in fondo non ci è nulla di male, perché il motivo stesso per cui viene messo in mostra il corpo femminile è quello di attirare e sedurre. La stessa motivazione condanna l'uso del corpo femminile come esca. La violenza sessuale pubblicitaria dovrebbe essere condannata e eliminata. Inoltre, com'è possibile pretendere da giovani e meno giovani un comportamento sessuale corretto e giusto quando ovunque si propongono corpi femminili seducenti? E come pretendere che un leone affamato mangi solo animali selvatici quando si trova in mezzo ad un mercato dove donne, uomini e bambini gli girano attorno e lo urtano? Oppure pretendere che un alcolizzato non beva vino se imbottiglia continuamente del vino? La sessualità nel maschio ruggisce come un leone, spesso lo rende ubriaco nella volontà, e se non si fa nulla per impedire tali inclinazioni, noi siamo responsabili delle conseguenze di qualsiasi violenza sessuale avvenga in seguito da parte degli uomini. Un'altra violenza sessuale da condannare è quella dell'abito femminile, se a volte di abito si può parlare. Secondo la descrizione della parola di Dio, quando Adamo ed Eva furono creati erano nudi e non avevano vergogna, ma dopo la loro disubbidienza si vergognarono di farsi vedere in quelle condizioni e l'Eterno Dio li vestì con delle tuniche di pelle. Perciò lo scopo del vestito era quello di coprire il corpo e non di mostrarlo come oggi succede. Un apparente innocuo spacco nella gonna. Ho lo scopo preciso di mostrare qualcosa che non si può vedere, come una scollatura che fa notare parte del seno femminile. È impressionante notare come ragazze e spose credenti vadano in giro con scollature che sono più provocanti del seno stesso. Potrei anche capire una ragazza ingenua, ma per le spose cristiane non vi è giustificazione. Come non sapessero ciò che provoca nell'uomo. Questa è una violenza sessuale della quale dovranno rendere conto. Un'altra violenza sessuale che compie la donna nei confronti dell'uomo è nell'ambito matrimonio. Sembra assurdo e una beffa, ma per quanto se ne dica, la violenza sessuale degli uomini sulle donne è molto inferiore a quella femminile, con la differenza che la femminile è ritenuta lecita. Per comprendere meglio questo aspetto, occorre dare uno sguardo ai diritti che hanno gli sposi nell'ambito della sessualità. Fino alla morte e resurrezione di Gesù, la società riteneva la sessualità un diritto prettamente maschile. In genere la donna era ritenuta uno strumento di piacere per l'uomo e il mezzo per la procreazione e la perpetuazione della specie. Che ci fosse l'approvazione o no, la donna doveva sottostare ai desideri dell'uomo. Con l'avvento del cristianesimo è arrivata una insolita e imprevista parità dei sessi che, meno beffa delle beffe, meno ha penalizzato maggiormente le donne. Paolo ne parla nella sua prima lettera ai Corinzi. Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccar donna, ma, per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme. Perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. 1 Cos 7.15. Questo famoso brano biblico non è stato del tutto compreso. Quando Paolo ordina agli sposi di dare al coniuge ciò che è dovuto, non si riferisce al sesso, ma a tutto ciò che serve per una convivenza umana, e cioè rispetto, amore, tenerezza, sostentamento morale e finanziario. È solo in seguito che Paolo parla della sessualità, la quale deve avere pari diritti negli sposi, e questo lo mette in evidenza quando ordina che la moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Perciò il coniuge deve ritenere che il proprio corpo non appartenga solo a lui, ma con gli stessi diritti appartiene anche al partner. Così come io ho il diritto di accedere al mio corpo, il coniuge ne ha altrettanto diritto. Cosa significa questo ragionamento? In termini pratici, cosa significa accedere con gli stessi diritti ad un corpo al punto che non ci sia nessuna differenza, concetto che la Bibbia definisce con una stessa carne? Con le mie mani tocco ogni parte del mio corpo senza nessun imbarazzo, anche le parti più intime, delle quali mi vergogno a far mostra. Infatti è la sessualità che divide il tipo di relazione con il prossimo. Con gli altri si può parlare, scherzare, perfino toccarsi, quando si è costretti dalle circostanze, per esempio dovendo aiutare qualcuno fisicamente. O ci si può scambiare un abbraccio affettuoso, ma alla mia sessualità nessuno ha libero accesso. Però, una volta sposati, cade questa barriera di separazione e di distacco. Ed ecco che il mio coniuge può accedere là dove nessun altro può accedere. Succede così che il mio coniuge ha il diritto di toccare ogni parte del mio corpo con la stessa indifferenza usata da me verso me stesso, al punto che si può dire di essere una sola carne. Se non vi è questa relazione si può essere sposati, ma non si è di fatto una sola carne, cioè un solo corpo. Se non permetto al mio sposo o alla mia sposa di avere la stessa libertà che possiedo sul mio corpo, Io sto trasgredendo un comandamento di Dio. Purtroppo, come quasi sempre succede, noi uomini siamo andati oltre e, parlando del matrimonio, diciamo che gli sposi diventano non solo una stessa carne, ma anche una stessa anima. Non vi nulla di più aberrante. Ogni coniuge deve mantenere la propria personalità, la quale indubbiamente deve affiatarsi con quella del partner. Ma pretendere che ci sia una sola personalità come ci è un solo corpo è distorcere il volere di Dio. In definitiva, essere un solo corpo significa che l'esercizio della sessualità toglie via l'unica barriera che impediva di conoscere e vedere fisicamente in modo totale l'altro. Purtroppo troppi sposi cristiani sono stati liberati dal peso del peccato, ma non dalla vergogna della reciproca nudità. Dove sta allora la violenza sessuale femminile nei confronti dell'uomo? Questa esiste quando una moglie impedisce all'uomo di accedere al proprio corpo con la stessa libertà a lei riservata, o gli impedisce addirittura di avere rapporti sessuali. Questa è violenza. Se la violenza sessuale, meno, come dice il dizionario, meno a imporre all'altro un rapporto sessuale indesiderato, essa è tale anche quando si nega un rapporto sessuale desiderato o addirittura necessario, come avviene spesso a causa della stessa natura della sessualità maschile. O forse le cose non stanno così, con una differenza. Che la violenza sessuale maschile è condannabile, è condannata perché diventa un'autoaffermazione orgogliosa e violenta di un diritto sull'altro, mentre questa forma di violenza sessuale femminile non è neppure considerata, e se lo è, lo è solo su carta. Qualcuno ha detto che il fragile edificio della vita personale e sociale è continuamente minacciato dalla violenza, perciò quando una società è sperduta moralmente, una causa principale è da ritrovarsi nella camera da letto. E da condannare la violenza maschile, ma quella femminile, subdola, invisibile, muta, ha un potere distruttivo senza limiti. Il grido è stato lanciato e chi lo raccoglie è in grado di presentare un messaggio che può guarire alla radice una società malata, perché l'uomo, a differenza degli animali, non dispone di alcuna regolamentazione naturale per incanalare in modo giusto l'istinto sessuale, ma la parola di Dio può farlo. Basta credere in essa, ovvero agire secondo le norme in essa contenute. Novembre 2007. Ellero.